Comunque in questi diritti dell'uomo visti dal punto di vista delle scienze religiose è una ripresa obbligatoria perché abbiamo alcuni temi importanti ancora da trattare, anche se la serie prevista per quest'anno è meno folta di quella dell'anno scorso, cioè abbiamo la presente redazione di oggi, poi se le trattative che abbiamo in corso corrispondono al 100%, penso avremo ancora una relazione sui diritti dell'uomo nel mondo dell'Islam, una relazione sulle discussioni relative ai diritti dell'uomo, soprattutto nel mondo germanico in questi ultimi anni, una relazione sui diritti dell'uomo nella Costituzione italiana e, se tutto va bene, una sintesi complessiva che ci aiuta a tirare delle conclusioni. Dunque, ancora tre incontri resterebbero per dopo Capodanno. La relazione odierna era forse quella che più di tutte ci ha obbligati a riprendere, vero, in questa seconda annata, la trattazione dei diritti dell'uomo, perché il tema dei diritti dell'uomo nel mondo evangelico, nella novità del cristianesimo, nella novità di vita portata dal cristianesimo, per noi era assolutamente inammissibile. Però quindi la lezione costituisce nella compagine dei temi previsti veramente un punto nodale, un punto di riferimento di primissimo ordine. Noi siamo particolarmente grati al relatore di questa sera, il professor Gambrino Magioni, del seminario di Como, che è intervenuto malgrado le difficoltà della stagione, la distanza la complicatezza del viaggio, però è con noi graditissimo ospite, credo anche per la prima volta nella diocesi di Trento, almeno per l'iniziativa della diocesi, credo sia stato ancora ed è apprezzatissimo in alto Adige, però gli incontri a cui vi ha ancora accettato di parlare, ma per noi è ospite per la prima volta, cosa quasi direi da parte nostra si dovrebbe essere oggetto di scusa data la sua competenza e la sua disponibilità, che bisogna più dire. È professore di teologia neotestamentaria alla facoltà interregionale di Milano, è autore del commento di San Giovanni, che molti di voi penso certo conoscono, e di una serie di articoli e interventi vari in riviste. Ecco, io sono lieto di dare a lui la parola e veramente apprezzo sommamente la possibilità di aver lui come relatore in questo tema che adesso è centrale nel contesto della nostra tematica. Ringrazio e devo dire che ho sentito con un certo spavento che questa relazione è fondamentale. I diritti dell'uomo nel Nuovo Testamento. Devo fare un paio di premesse per precisare il metodo che seguito in questa relazione e anche l'ambito. È scontato che non possiamo pretendere all'interno del Nuovo Testamento un approccio al problema dei diritti dell'uomo, un approccio direi analogo all'approccio moderno, e questo è scontato, sarebbe una pretesa veramente fuori posto. A me pare che neppure ci sia il tema neppure sia trattato, neppure da angoli diversi, sia trattato in modo tematico, in modo esplicito. Mentre invece, qui almeno è sembrato a me, c'è nel Nuovo Testamento un discorso che è religioso, che è profetico, un discorso che tocca, parlando di una cosa o dell'altra, tocca l'uomo, la sua dignità, il suo diritto, questo qua, direi anche ampiamente. Aggiungo che spesso questo discorso religioso profetico che tocca l'uomo, la sua dignità, il suo diritto, spesso questo discorso è in un contesto polemico. Polemico, comprendete, contro costumi, tendenze, ideologie del tempo, contro tutto ciò che quella dignità e quel diritto in qualche modo violato. E questo discorso religioso, profetico e polemico è disseminato Ho detto che non è presente in pagine ampie, in modo tematico, ma è disseminato nella prassi di Gesù, nella prassi delle prime comunità, poi disseminato in prese di posizioni varie, in controversie, avvertimenti di vita. Questo a me è sembrato da una prima lettura. E qui allora si può vedere il compito è quello di leggere, in una prospettiva particolare, attenti al risvolto della divinità dell'uomo dei Cristi, leggere pagine evidentemente già molto note del mio testamento. Prima premessa. Seconda. Il mio discorso si direi sviluppo in due momenti. Due momenti distinti, però anche molto collegati. Da prima una lettura. Una lettura parziale, molto parziale. Anche se forse già fin troppo ampia, comunque cercherò di non andare oltre il tempo ragionevole. Comunque, dapprima una lettura che io chiamerei una lettura fenomenologica del Nuovo Testamento. C'è una lettura che raccoglie gesti, parole, elementi vari, nei quali però si intravede una presa di posizione in favore dell'uomo dei suoi diritti. Perché una raccolta, questo è il primo momento, chiamare anche un po' il momento analitico. Poi però, in un secondo momento, un discorso più approfondito, anche se è troppo rapido, non si riuscite ad andare oltre, è che in un secondo momento un tentativo di ricostruzione del quadro teologico e antropologico che spiega quelle prese di posizione che abbiamo visto in diverse tipi. Il quadro teologico e antropologico che unifica quelle diverse prese di posizione e le giustifica. In altre parole, io sono preoccupato di trovare le radici dell'atteggiamento neocristiano. Non semplicemente gli episodi che lo manifestano. Perché è chiaro che, volendo fare poi il discorso che attualizza o che cerca nel Vangelo un'ispirazione per l'oggi, cosa che io evidentemente non faccio, è da questa radice che si parte e non certo dal cinese. Certo, premesso che un grosso limite di questo mio discorso, però che non è completo, a parte la prospettiva scelta, che è già una precisa limitazione, ma poi non è completo perché date spazio al Vangelo molto, molto, molto meno. Inizio con un appunto, ma più che altro di collegamento, questo modo per introdurmi. Mi sottolineo che questo punto è uno spunto antico-testamentario. Lo faccio perché rispetto avvia il discorso e poi perché mi sembra che nelle conclusioni finali del Nuovo Testamento si dovrebbe scoprire una profonda sintonia con questo punto antico-testamentario. Per quanto riguarda l'Antico Testamento, è certamente molto interessante dal nostro punto di vista il capitolo primo della Genesi, no? Genesi 1. E di quel capitolo che racconta la creazione, racconta la creazione dell'uomo, ecco, di quel capitolo a me sembrano importanti tre cose, molto importanti, molto ricche anche di contenuto. La prima è che noi ci troviamo, in quella pagina, ci troviamo, diciamo, di fronte all'affermazione chiarissima di quello che potrei chiamare il primato di Dio. Mi pare che lui, il tema essenziale, sia davvero la signoria di Dio. Di tutte le cose. Ma è interessantissimo vedere come proprio in una pagina si afferma il primato di Dio e nel contempo affermato il primato dell'uomo. Questo uomo che deve dominare di tutte le cose. Questa è una prospettiva che non manca mai, a mio parere, nel discorso biblico, compreso il Nuovo Testamento. Secondo, l'uomo è definito immagine di Dio. E qui sta, comunque si interpreta questa immagine, qui sta la dignità dell'uomo e anche però la sua relatività, la sua misura. L'uomo è immagine di Dio e dunque sopra le cose. E dunque ha il diritto di dominarle e non deve sottomettersi alle cose. E neppure l'uomo sottomette l'uomo, questo chiaro, immagine di Dio. Nel contempo però è solo immagine di Dio, che è sottomesso a Dio, e non Dio. Non deve farsi Dio, né accettare che altri si facciano lei, né lui farsi Dio. Aggiungete che questa immagine che la radice della dignità dell'uomo, della sua misura, questa immagine deve essere intesa come una realtà intanto universale. È Adamo l'immagine di Dio, non alcuni uomini. Gli uomini, ogni uomo, specificamente per quegli uomini. Oltre che universale, è direi una categoria globale che tiene presente tutto l'uomo, non certo solo lo spirito dell'uomo, cosa del genere, saremmo completamente fuori prospettiva, no? Interpretarsi nell'immagine di Dio, semplicemente come le facoltà intellettuali e spirituali, è l'uomo intero nella posizione. Certa idea molto collegata, come era già implicita nella seconda, è che allora, direi che a partire da questo punto si prevede come la forma dell'idolatria è duplice, cioè sottrarsi a Dio, ma anche dominare l'uomo, costringere l'uomo a piegarsi a ciò che non esiste. E il tutto mi sembra molto ben indicato e riassunto, soprattutto qui si vede anche qual è la partenza della mentalità biblica che riflette sull'uomo e sulla sua dignità, e tutto mi sembra letto nel Salmo 8, che tutti conoscono evidentemente. Per cose che sia anche inutile leggerlo. Questo Salmo che si apre con un'affermazione della sovranità di Dio. Dio è il di sopra di tutte le cose, Dio è grande. E si conclude con la stessa affermazione ripetuta, Dio è grande all'inizio, Dio è grande alla fine. Da qualsiasi angolatura lo guardate, Dio è grande. Ma all'interno di questa cornice che afferma la grandezza di Dio, un discorso sull'uomo. Ebbene, l'uomo è grande o piccolo, dipende da come lo guardate. Se l'uomo di fronte al creato è piccolo, questa è la riflessione del Salmista. E che cosa vale un uomo se lo guarda così? Se pensate a dire che non vale nulla di fronte all'immensità del creato. Ma credo che noi oggi ragioneremo anche diversamente. Se tu guardi un uomo, in mezzo agli uomini, sono talmente tanti gli uomini, a vedere questi uomini che sembrano insignificanti, che muoiono vivo senza dire nulla, ti sembra di dire che cos'è un uomo, se lo guardi così, che cos'è un uomo. Eppure Dio lo ha fatto poco inferiore a lui, no? Più o meno questa è il senso. Vedete allora? Questa grandezza di Dio che è dell'uomo che è colta a partire da Dio, no? Non è colta guardando l'uomo in se stesso, ma l'uomo biblico ha colto la grandezza dell'uomo a partire da Dio, diciamo dall'amore di Dio verso Dio. Questa mi sembra una prospettiva che ritroveremo pari pari nel Nuovo Testamento. Sono consapevole che questa partenza biblica è rischiosa, perché se uno sbaglia la concezione di Dio, finisce, no? La voglia di Dio, certamente. Però è anche grandiosa questa partenza, perché sottrae la dignità dell'uomo a ogni possibile simulazione. Se la dignità dell'uomo dipende dall'amore di Dio in suo confronto, non è più possibile metterlo in discussione, ma anche in nome di Dio. Bene, questa era la premessa che mi sembrava giusto fare, ma adesso iniziamo subito con il Nuovo Testamento e incominciamo con quella parte che ho detto lettura fenomenologica. Gesù e la comunità, che sono le due realtà che ho davanti e che si mescolano, che io adesso non sento neanche troppo di distinzione. Gesù e la comunità mi testimoniano, alla luce del Vangelo, di qualche altro testo che ho messo in armonia con il Vangelo, mi testimoniano una prassi di accoglienza universale. Questo è un primo dato che ho dato. È un dato molto, molto presente nel Nuovo Testamento. Gesù e la comunità, una prassi di accoglienza universale. Ed ecco alcuni punti che mi limito a citare, ecco, non voglio neanche approfondire troppo, anche perché dal nostro punto di vista non esistono neanche troppo approfondire. Cominceremo con il Vangelo di Marco, cogliendo dal Vangelo di Marco, a proposito di Gesù, a proposito di Gesù e della sua prassi, ma direi di quella prassi profonda che potrei anche indicare come la sua identità, il motivo per cui è venuto, per questa frase del Vangelo di Marco, sono venuto padre, che evidentemente vuole indicare la ragione profonda dell'incarnazione, di questa presenza di Cristo. Ebbene, il Vangelo di Marco io trovo un primo passo, capitolo primo, se non erro, versetto 38, ma devo confessare che ho citato a memoria. Quindi potrebbe darsi che versetto 38 sia un versetto di più. Dove, e siamo proprio nella prima pagina in cui Marco esemplifica una giornata di Gesù. Ecco che a sera Gesù si è affondato da una folla immensa in piazza, una porta, una folla immensa di storti, di ammalati, di indemnizzati. E al mattino Gesù si ritira sul monte a pregare, ma la folla è già arrivata. Allora i discepoli lo cercano sul monte e dicono: tutti ti cercano. E risposta strana di Gesù: andiamo altrove. Per questo sono venuti per predicare anche là. Tutti ti cercano, andiamo altrove. Ecco già una prima indicazione che Marco mi dà sull'identità del Cristo, sulla, diciamo, sulla struttura di fondo della sua prassi. Questo Gesù che va altrove, che è di tutti, neppure che la folla può dire prima noi, deve andare anche altrove. Il Cristo che non si lascia soffiare, no? Ma andiamo avanti, capitolo secondo. La chiamata del pubblicano lì. E Gesù che mangia con pubblicani e peccatori, si sta scandalo. Risposta: sono venuto non per i giusti, ma per i peccatori. Il medico non va a cercare i sani, ma i malati. Altra rottura, no? Altra schema che si infrange. Ecco, il Cristo non è per quelli che si presumeva, per questi e basta, ma oltre, qui è rotto direi un schema che potremmo chiamare sociologico. E infine mi sembra il capitolo 4, la scena dei parenti. Mi pare che questo modo di presentare Gesù da parte di Marco sia un dato abbastanza costante. La scena dei parenti. Gesù, dice Marco, sta parlando e attorno c'è la folla e arrivano dietro i parenti. E qualcuno dice: è arrivata tua madre e i tuoi fratelli. E Gesù risponde, guardando in giro, sono le parole quasi precise di Marco, guardando attorno, Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Niente ascolta la mia parola, è madre e fratello. Neanche la parentela, può dire a Gesù che è il nostro. Questo Gesù che non lascia dire a nessuno, no? È nostro, è mio, è oltre, rende questi cuori. È chiaramente una struttura di universalità. Che poi al capitolo 10, sempre di Marco, versetto 45, si precisa. La definizione che Gesù dà di se stesso, che poi propone al discepolo, è: il figlio dell'uomo non è venuto a farsi servire, ma a servire e dare la vita in riscatto per le moltitudini. Cioè, dare la vita, secondo me, è una spiegazione del servire. Servire vale a dire, dare la vita, cioè gestire l'intero esistenza fino all'ultima conseguenza, fino alla morte, gestirla e riscatto, prendendosi a carico le moltitudini. Quindi, allora, una struttura di universalità, ma di più, di solidarietà attiva verso l'India. Questa è la struttura del Cristo della società. Quindi siamo arrivati al fondo di questa struttura. Ma una seconda osservazione. Tutta la vita di Cristo testimonia una accoglienza, da qui il Vangelo, in particolare, fino a un'accoglienza degli emarginati, degli ultimi, degli esclusi, e li potremmo enumerare: gli ammalati, gli indemoniati, i bambini, i peccatori, le donne. Ecco, tutte le categorie che in qualche modo erano per un motivo o l'altro emarginate, spesso per dei motivi religiosi. Credo che non valga neanche la pena di citare questi casi. E tutto questo in un contesto per lo più polemico. Polemico perché suscita una reazione, ma anche polemico perché le cose non è che andassero precisamente così. La stessa cosa è invitata a fare la comunità. Sto pensando, ad esempio, al capitolo 18 di Matteo, in qualche modo un discorso all'interno della comunità. Ebbene, quel discorso all'interno della comunità invita la comunità, che proprio vuol dare delle precedenze, a darle al tutto, per esempio, non conto. Potrebbe analizzare i vari sensi di questo termine piccolo nel capitolo 18 e assume in qualche modo tutte le forme della emarginazione che poteva essere all'interno della comunità. Dai piccoli che bisogna accogliere, dai piccoli che possono essere quelle persone scandalizzabili che sono tentate di trascurare nelle tue riforme, nelle tue scelte pastorali, perché tanto non contano, e invece i loro angeli vedono la parte del padre, e i piccoli che sono i peccatori che la comunità è tentata di non andare più a cercare. E invece, ecco come, noi usando la propriazione di Matteo, uno solo, anche uno solo di questi tutti, uno, neppure la quantità, allora, no? Di giustifica, così, la non solidarietà o il concedere meno diritti a uno solo. Si continua a ripetere questo uno solo. E l'altro testo di Matteo, invece all'esterno, che è Matteo 25, e sei piccoli fratelli, ti devi dare da bere, no? E lì è tutto. Di Dio accoglie il nemico e rifiuta di conseguenza la violenza. Qui ci sono delle parole molto più dal discorso della montagna, Matteo 5, 38, 48, Luca 6, 27, 37. Parole a tutti noi. Sono parole importanti. E a quei gesti, per esempio il Getsemani, Gesù che rifiuta la spada, muove, si vangola e la croce. Cioè, in altre parole, con questo accoglimento del nemico e di conseguenza residuo della violenza, Gesù rompe in sostanza il cerchio che sembrerebbe ovvio o addirittura inevitabile, il cerchio che è questo, all'amore si risponde con l'amore, ma all'ingiustizia, all'odio, alla violenza si risponde con la violenza, l'amore a diritto, il non amore, no, il nemico, no. E invece per Gesù l'amore sempre, neppure il nemico è chiuso. La prassi di Gesù, poi si estende direttamente perché abbiamo visto in qualche punto alla comunità, questa prassi di Gesù, oltre che accoglienza di tutti, direi testimonia anche una strategia, un metodo. E cioè che il regno, lui è venuto ad annunciare che questo si comporta, regno che è giustizia, che è salvezza dell'uomo, eccetera, il regno è da proporre, ma non da imporre. È il dovere che ha chiesto rifiuto va a finire sulla croce. È invitato a prendere e a chiamare la sfera di angeli per imporre il discorso, e poi Dio vince, non è accettato quella croce. Quindi nel deserto non ha accettato la proposta del tentatore. E che anche qua e là nelle parole di Gesù esplicitamente una giustificazione a questo comportamento di accoglienza universale verso tutti, compreso il nemico. Un tipo uno di queste parole l'ha trovato nel discorso della montagna di Matteo. Si deve fare così come il padre che fa piovere sui buoni e si capisce, che manda il sole sui buoni e si capisce. No? Dunque il punto di riferimento di questa accoglienza aperta, universale, è il fatto di amore. Allora abbiamo, sia pure così di corso, ma non credo che approfondire un po' l'altro arricchire gli altri discorsi. Abbiamo visto quello che abbiamo chiamato la prassi di Gesù come accoglienza universale. Consapevole, polemica anche contro alcuni sottili. Ma questa consapevolezza, questa polemica, la vediamo ancora meglio in alcuni casi, perché ne ho scelto alcuni, quelli che facilmente si riuscite a trovare, non so se proprio li ho verificati per il tema. E la prima questione che Gesù supera, il primo schema che direi divideva gli uomini, ad alcuni dando diritti, ad altri no, il primo schema che è del puro e dell'impuro. Tanta importanza aveva, puro e l'impuro, uomini da accogliere, uomini da evitare, uomini con i quali non puoi seguire a mente, per gli avete fatto, con tanti riti per purificarti qualora hai incontrato qualcuno di questi uomini. A gloria di Dio, naturalmente, questi riti, per rispettare la santità di Dio, credo che lo studiamo, una delle malattie dello spirito ricorrente. Ebbene, sempre nel Vangelo di Marco, primo episodio, capitolo 5, la guarigione dell'emorroide. Questa donna che serviva sangue è giunta impura. E tocca Gesù. E Gesù rende pubblico quel gesto. Chi l'ha toccato? È differente, no? Alla pubblicità del gesto, la risposta. La guarita, non l'ha sgridata perché l'ha toccata, al di sopra del puro e dell'impuro, la piace di piace. È il primo gesto, così, molto di più. Ma anche il capitolo 7, un'esplicita polemica tra Gesù e i farisei, i scribi, sulla legge, sulla tradizione. A un certo punto Marco nota che Gesù dichiarava puri tutti i cibi. Veramente non certo solo i cibi. Se volete un altro testo, questa volta all'interno della comunità, perché se il Cristo vedrete lo schema del puro e dell'impuro, la sua comunità ha ascoltato un po'. Ed ecco allora gli Atti degli Apostoli, i famosi capitoli di Pietro e Cornelia, Pagano e Cornelia, la visione del lenzuolo, la visione che Pietro ha, il lenzuolo con gli animali immondi e l'ordine di mangiare. E il povero Pietro a me sembra che risponda, ma io questi peccati li ho mai fatti, ma eppure da piccolo. E Dio ti dice ciò che io dichiaro pure, non ritenerlo impuro. E poi, commento che tutto l'episodio è ricchissimo, andrebbe letto tutto, è talmente esplicito questa prospettiva. Pietro che battezza questi pagani, e quando gli chiedono il perché risponde, ma che sono io per esistere lo spirito? E davvero Dio non fa differenza tra le persone. Chiarissimo. Dunque il valore dell'uomo si tratta della distinzione tra puro e impuro, giudeo e pagano. In altro caso, la questione del tempio. Potremmo mettere come titoletto la bellissima frase del Vangelo di Marco, ripetuta poi anche dagli altri, il velo del tempio si rissa, fino a fondo. Se leggiamo il capitolo 11 di Marco, l'episodio della purificazione del tempio, ci accorgiamo che Marco, citando il profeta, arriva fino alle parole casa di preghiera, cioè tutte le genti, questo è molto importante. Eppure la struttura del tempio era una struttura contro l'universalità, perché i giudei potevano entrare, ma non i pagani, cosa che addirittura anche i romani avevano accettato. C'era la pena di morte. Marco quindi, la conclusione della crocifissione, tra i segni positivi della morte di Cristo, tra i suoi segni che rovesciano le accuse contro Cristo e le delusioni, al detto di distruggere il Tempio, al detto di essere figli di Dio, ecco, c'erano anche i duomo figli del processo, ecco, tra i segni positivi che indicano che il mondo nuovo è arrivato, il velo del Tempio di Cristo. E a questo proposito credo che bisognerebbe citare anche Efesini, per passare un testo questa volta comunitario. Efesini 14, 16, è il potuto che l'ha fatto. Dove Paolo parla dei vicini, dei lontani, dei pagani, dei giudei, e afferma che il Cristo è la nostra pace, perché ha rotto il muro di divisione, facendo dei due uno e conciliandoli nel suo sangue, più o meno con questa parola. Ecco, questa idea del muro divisorio e del Dio uno potrebbe essere letta all'interno di una mentalità, diciamo, piuttosto greca. Allora ci verrebbe in mente che il muro divisorio, che divide il mondo divino dal mondo dell'uomo, il mondo dello spirito e della carne, che il muro si è abbattuto in Cristo. Assegnato a farla forza Cristo, il suo divino di uomo e a me. Quindi nessuna concezione, come dire, dualistica, no? Della realtà. Una sfera di Dio, una sfera che non è di Dio. Ma io credo che vada letto di più, e certo il commento che ne fa Paolo quello, all'interno invece del mondo di Dio. Il muro divisorio allora fa venire in mente quella iscrizione che c'era sul tempio di Gerusalemme, in tre lingue. Il giudeo può entrare, il pagano deve rimanere fuori. Ci sono vicini e i lontani. No? I vicini a Dio e i lontani. Quel muro è crollato con la croce di Cristo. Cristo, la nostra pace, ha fatto di Dio uno. E così anche questa struttura di divisione, di emarginazione, è creata. In questo caso, la questione del sabato. Questa è forse una delle cose più interessanti, dal nostro punto di vista. Mi accontento di Marco 2. Potrebbero vedere anche gli altri passi, compreso il Vangelo di Giovanni, ma concentriamoci del capitolo secondo di Marco. Perché se tutto il secondo di marzo si andrebbe letto tutto, analizzato tutto, perché l'insieme è molto interessante per noi. Ma brevemente, ci troviamo di fronte a una serie di controversie che nascono in occasione di alcuni gesti di Gesù e dei discepoli. La guarigione del paralitico, e Gesù che dice che sono perdonati i peccati, perché allora la prima reazione, che è costretto a perdonare i peccati. Poi Gesù che chiama il pubblicano Levi, che abbiamo già visto, mangia con pubblicano e peccatore. Allora si lamentano tra essi discepoli, perché il vostro maestro? E poi una discussione sul digiuno. I discepoli di Giovanni, i farisei digiunano, i suoi non digiunano. Qui la risposta di Gesù, sullo sposo, è sempre dalle notte, si digiuna prima, si digiuna dopo, non certo durante il pranzo di notte. E poi le due parabolette del vecchio, degli uovi, il vino, le bocce, il vestito vecchio, la fetta di notte. E i discepoli che di sabato, passando tra i campi, hanno fame, prendono le sfide e le mangiano. Così hanno violato il sabato. E infine Gesù, che nella sinagoga di sabato, guarisce una notte. Questo è un po' è il materiale. Il materiale che però qui si è strutturato molto bene, in un modo molto indicativo in questo capitolo. Certo, il materiale ha una diversa origine, però si è sistemato però in un modo molto intelligente. Qui nel Vangelo di Marco. E se guardiamo come si è sistemato questo capitolo, ci accorgiamo che due sono le affermazioni fondamentali. Attorno a cui si dispone il materiale. Due e poi un centro, credo. La prima affermazione è il Dio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati. È un'affermazione che troviamo in alto, che è la prima parte. La seconda affermazione, che troviamo invece in basso, è il Dio dell'uomo è il Signore del sabato. Osservate come queste due affermazioni affermano ambedue una signoria, un potere. Un potere sui peccati e una signoria sui peccati, no? Il resto del materiale, ripeto, si dispone attorno a queste due affermazioni. Ma prima di vedere come si dispone, vediamo il senso delle due affermazioni fondamentali. Il figlio dell'uomo ha un potere sui peccati, ma che cosa fa di questo potere? Perdono. Lo utilizza per perdonare, no? È un potere di perdono. Noi diremmo in una terminologia che per la verità non mi piace tanto, talmente abusata, è un potere per l'uomo, non in favore dell'uomo. E poi è il Signore del sabato. Ma che cosa fa di questa signoria? Afferma che il sabato è per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. È il Signore del sabato, ma regala il sabato all'uomo. E tutto il materiale si raduna proprio attorno a queste due frasi fondamentali. All'inizio, ecco, la guarigione di quel paralitico, appunto un'illustrazione, no, del suo potere di perdonare i peccati. E come realizzazione di questo potere chiama un pubblicano, mangia con un pubblicano e peccatore, no? È illustrazione, è dimostrazione. Poi, l'uomo superiore al sabato, conta più del sabato, è giusto che i discepoli raccolgano le sfide del sabato, è giusto guarire un ammalato. Però è sempre la battuta sul vecchio signore. A mio parere diventa questo punto importante, anche perché è la spiegazione della notazione che Marco fa scivolare nella descrizione dell'ultimo miracolo, la guarigione, capitolo 3, all'inizio, la guarigione dell'uomo che aveva la mano paralizzata di sabato, questa guarigione di sabato. La notazione è Gesù li guardò indignato per la durezza del loro cuore. Questo cuore duro che rifiuta, ma che cosa rifiuta in sostanza? Questo cuore duro rifiuta questa prassi di Dio, questa nuova concezione di Dio verso settembre, con Dio che perdona e Dio che accoglie i peccatori, con Dio che dichiara che la gloria di Dio è la benefica dell'uomo non contro l'uomo, il sabato per l'uomo non l'uomo per il sabato. E questa è la novità, che è la novità che non si può contenere nelle vecchie botti, bisogna rinnovare queste botte, queste strutture mentali e religiose, ma logiche, vanno rinnovate, ma al cuore duro non accetta. Promesso, è vero, l'uomo dovrebbe accettare un Dio che afferma che ogni uomo è amato. In realtà l'uomo non accetta questo Dio. Proprio certo, no? Non si permette più di emarginare nessuno. Comunque il senso di questa polemica sul sabato allora è una chiara affermazione che il sabato è per noi, cioè il senso del sabato, ma più a fondo il senso della gloria di Dio è la libertà dell'uomo. Ecco l'uomo, ecco il sabato, ricorda che Dio ha liberato l'uomo ed è un anticipo di quella liberazione che alla fine l'uomo avrà, sottratto la schiavitù, del lavoro, del peccato, di tante altre cose, come Gesù nel Vangelo di Giovanni. Ha guarito l'uomo di sabato, alla piscina, non che farlo apposta, ha guarito quello che non poteva guarire, stando al culto che lui si svolgeva. Perché al nostro Giovanni, il primo che si buttava, quando l'angelo muoveva le acque, il primo guariva, il primo era il più sano, che chi ha un servo dietro che lo sbatte giù, e che poveretto, non era sano, non aveva qualcuno dietro che lo buttava. E Gesù guarisce lui, e lo accusa di aver violato il sabato, e Gesù ritorna invece facendo capire che l'ha proprio compiuto il sabato. Il sabato è la celebrazione della libertà, della guarigione della salvezza, ha guarito un uomo, l'ha salvato, dunque ha riempito il sabato del vero senso. L'uomo è sopra tutto. Quinto caso, e quarto, non mi ricordo più. Di fronte al denaro e alla ragione di Stato. E questo è un caso in questo. La quale è sempre. A proposito del denaro, dell'accumulo meglio di Mammona, io citerei il suo brano di Matteo Santo. Ebbene, l'uomo è invitato. E intanto è invitato a non sottomettersi al denaro come a un padrone. E poi invita l'uomo a liberarsi dall'affanno. Non affannatevi. A utilizzare la fede del Padre per liberarsi dall'affanno. In altre parole, l'uomo non deve mettere la sua ragione di vita, la sua consistenza, non deve fondarla sul denaro. Perché il denaro è fragile, non dà consistenza, e allora tu, per trovare consistenza, visto che il denaro non ce l'ha, accumuli, credendo di trovarla nella quantità. Allora diventi schiavo di quel denaro che tu hai cercato come mezzo, no? Per mettere i piedi e fondare lì la tua vita e trovare la vita. Non la fanno. È veramente un invito all'uomo a non sottomettersi. Certo. E poi, un altro esempio, Matteo 10, 30-31, all'interno del discorso missionario. Di fronte alla violenza che perseguita, il discepolo è invitato a sottrarsi alla paura e a ricordare che è nelle mani di Dio. Quanto a voi, anche i capelli del vostro capo sono numerati. Non temete dunque, voi avrete ben più di molti pascoli. Se il padre che dà la vita in pace, non protegge, figurarsi voi. Quindi sottrarsi alla paura, la paura che può venire dalla violenza, che può venire da qualcuno che vuole schiacciarsi, che sarebbe tutta la manifestazione che dei profeti dell'Apocalisse, mi pare, che invitano a smistizzare, a sottrarsi alla paura di questa realtà. Perché tu con la fede diventi lucido e allora vedi che le cose in profondità, vedi che hanno i piedi d'argilla. E poi la tua fede ti fa prevedere come andranno a finire le cose, fuori l'altra. E se questo già queste cose comincia a ridere qui, bisogna scappare di grado. In modo che tutti adorano queste bestie, ma tu già ridi e sei libero. E poi l'altra frase, date a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio. Questa frase è da leggere un po' nella nostra prospettiva. E a mio parere si pare, mi sembra che l'uomo sia sottratto alla ragione di Stato. È benissimo, sono frasi, sono parole queste, date a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio. Una frase non certo facile da interpretare, e sono anche diverse possibilità. Però mi pare che al fondo Gesù voglia affermare anzitutto il primato di Dio, la signoria di Dio. Signoria di Dio che non è strumentalizzato, che non vuol dire che allora lo Stato deve sottomettersi alla Chiesa e essere strumentalizzato alla Chiesa. Non è questo, è certamente, per amore di Dio. Anche perché se è saltato a Chiesa è sempre così chiaro. Ma è l'impossibilità, questo è affermato, in nome della signoria di Dio, l'impossibilità di rinchiudersi dentro lo Stato del suo regno. Quindi il credente, ogni uomo, ha il diritto di essere l'obiettore di questo. Perché ci sono dei valori che sono usciti dalla signoria di Dio, sarebbe di Dio, che non che possono anche non essere dentro quella ragione di Stato, l'idolatria dello Stato, che lo Stato non esaurisce la sua questione. E si va. L'uomo è il discorso. E il sì e il no, è la ragione ultima del sì e del no, non è dentro lo Stato. E lo sì è per te. La il termine moderno è l'uomo che ha di fuori, no? E questa era una correlata, e la lettura fenomenologica, si potrebbe andare avanti, ma a che scopo questo punto? A me pare che due siano le conclusioni di questa lettura, potrebbe ulteriormente documentare, ma almeno per quanto risultano non sostanzialmente arricchire. Due conclusioni. La prima semplicissima, l'uomo, quando a questi punti, alla frase di Gesù, al suo intervento, alle sue polemiche, a qualche cenno anche di riflessione comunitaria, l'uomo è sottratto a ogni schema o criterio emarginante. Si concede diritto ad alcuni ad altri no, il puro e l'impuro, l'amico e il nemico, il vicino e il lontano. E la dignità dell'uomo è affermata sopra, è qualcosa che è sopra, sopra il denaro, sopra lo Stato, perfino sopra il padre. Questa è la prima semplicissima conclusione, ma quanto ricca, a livello profetico, per una altra conclusione che è radicale, quindi per le conseguenze, per un'altra cosa, per le mediazioni che mancano, evidentemente. Seconda conclusione di questa semplice. Il Nuovo Testamento, come risulta da questa frase di Gesù, non si accontenta di affermare i diritti dell'altro, non esaurisce i diritti dell'uomo nel rispetto, ma parla sempre di accoglienza, di solidarietà attiva. Questo mi sembra importante. Direi, alla base c'è la categoria cristologica del prendersi a carico, del rispetto. Quindi, però affermare i diritti dell'uomo quando il vero vuol dire solo rispetto ai diritti degli altri, ma mi prendo a fare con gli altri, la solidarietà attiva verso chiunque, è ben altro, no? È ben altro. Anche perché se non fosse la solidarietà attiva ricadremmo in uno schema emarginato, il più debole che non sa difendere i suoi diritti, no? Invece devi prendersi a parte. È la solidarietà, accoglienza. E ripeto, lo schema è quello cristologico, che si oppone a quello mondano. Il figlio dell'uomo non è venuto a farsi servire, questo è lo schema mondano. E il mondo vuole applicare questo schema anche a Dio stesso. E si attende in Dio, che è logico che come Dio deve farsi servire. Certamente. Ma ecco qua la opposizione. Servire può prendersi la solidarietà attiva del figlio. Questa è la lettura fenomenologica e le sue due brevi, direi anche abbastanza sostanziose, conclusioni. Sentiamo adesso di ricostruire il quadro teologico, antropologico, entro il quale questi punti si muovono. E questi punti si pongono, in altre parole, cerchiamo le radici del discorso. Ecco, io mi accontento di quattro elementi, quattro affermazioni, che poi sono riducibili a due, ma se ne facevo due mi sembrava un po'. Primo, alla base di tutto c'è una concezione di Dio. E credo un Dio per l'uomo, un Dio che ama ogni uomo e sempre. Voglio non vedere l'affermazione, eh? Ogni uomo è sempre. La illustrazione migliore di questo Dio, che ama ogni uomo sempre, beh, la illustrazione migliore secondo me è nella parabola della misericordia di Luca 15. Perché c'è lì, Dio è come un padre, che ama il figlio obbediente, ma anche il figlio che se ne è andato, e lo ama sempre, e non sa differenza. Oppure, la sua illustrazione, ma sì, è tutta illustrazione, non è una parabola, l'ha trovata sulla croce di Gesù, cioè la realizzazione piena di tutta la vita, presa prendendosi a carico chiunque, e che adesso muore per tutti. Veramente il mio discorso sui piedi, se pensiamo alla croce di Gesù, la morte per tutti, prendendosi a carico, noi vediamo questa croce come la trascrizione storica del volto di Dio, è da così. Questo di Cristo arriva da qui, no? È il parte storico di Dio, che della sua politica, della sua mentalità, del suo amore, si è visibilizzato in questa frase di Gesù. E ci sono anche altre parole di Gesù, le ho anche già assegnate, questo Dio che fa ragionare il sole e la pioggia più buona di questo. Ecco, a me sembra chiaro che tutto quanto detto, e molte altre cose che si potevano dire, tutto rimanda a questa prima ragione. La frase di Gesù, il suo punto di vista nelle controversie, il suo avvertimento ai discepoli, tutto parte da questa esperienza. Quindi allora dobbiamo dire che la dignità dell'uomo, di ogni uomo, l'accoglienza doverosa verso l'uomo, persino il nemico, ecco, tutto questo deriva dall'amore di Dio che raggiunge l'uomo. Non dà. E qui siamo in linea con l'Antico Testamento, mi sembra, no? Troviamo di fronte a una confessione religiosa, radicale e profetica. I diritti dell'uomo sono sottratti a ogni possibile sulla terra. Ecco, l'uomo conta non perché fa questo o quest'altro, non perché è di questo popolo o di quest'altro, neppure perché è credente o no, e l'uomo conta perché Dio lo ama. È l'amore discendente di Dio che dà dignità ai suoi diritti. L'amore di Dio è la sacrificio non fa. Dio la radice di così si muore. Prima cosa. Questa è la prima, il primo dato che io credo fondamentalissimo. Potete anche capire come Gesù, che ha fatto quello che ha fatto, ha detto quello che ha detto, e nella misura del possibile, del contesto sociale del suo tempo, ha rotto le chiusure, ha affermato i diritti di ogni uomo, lo ha fatto, cioè, non partendo dall'uomo, da un'analisi dell'uomo, ma da un'esperienza del padre. No? Lui sapeva che il padre ama un uomo, e da un'esperienza religiosa, è una partenza religiosa, non politica, certamente. Secondo, beh, è la concezione dell'uomo, certamente. C'è tutta un'antropologia qui dentro. Perché si discute se c'è nel Vangelo l'antropologia, basta il tema di spiegare l'antropologia, se non è. E anche questa concezione dell'uomo non è derivata tanto da un'analisi sull'uomo, ma da un'esperienza religiosa. Ed è collegata all'esperienza di Dio. Perché facendo un'esperienza di Dio, incontri l'amore di Dio, fai un'esperienza dell'uomo, dell'importanza dell'uomo. E quali sono i punti di questa concezione dell'uomo che sta alla base della frase di Gesù, delle sue affermazioni e delle sue parole? Beh, primo, l'uomo è amato sempre da Dio. La stessa cosa che ho detto prima, visto da un'altra analogia. L'uomo è amato da Dio. Ma secondo, e subito una seconda cosa, l'uomo è visto come struttura di servizio anche, come Cristo. Ed è visto come fatto per la solidarietà. Dovremmo citare le parole di Marco capitolo 8, non c'è il versetto preciso, ma deve essere verso il versetto 33. Chi si perde, si trova, no? Chi si possiede, si perde. Ecco la nuova, la concezione che sta alla base, che è mutuata dall'esempio di Cristo, no? Che perdendosi si è ritrovato. Ecco, vedete, per il Nuovo Testamento l'uomo è veramente una struttura di servizio. Si ritrova, dire, realizza se stesso nella solidarietà attiva, prendendosi a carico, apprendendosi e non accumulando per sé, e non emarginando, ma donando. E questa concezione dell'esistenza come servizio è indispensabile perché i diritti dell'uomo trovino spazio. Là dove c'è una concezione dell'uomo come possesso, non c'è più spazio per gli altri, perché ci si contrappone. Solo dove c'è l'idea dell'uomo come servizio, e nel servizio si realizza perché questa è l'idea dell'uomo. Non che l'uomo si perda, ma si realizza, si costruisce, è pensato, secondo il Vangelo, l'uomo è pensato come struttura di servizio e di solidarietà. Per cui è l'uomo che si decide a prendersi a carico la forza di tutti, e quindi ad aprirsi, non si perde, ma si ritrova, e si avanziare. Quando le parole di Marco non vuol dire si perde di qua e si trova di là in paradiso. No, dentro questo mondo, di qua e di là, si perde e si ritrova. C'è un'umanità che concepisce l'uomo, i gruppi umani, in contrapposizione come possesso l'un contro l'altro, questa umanità si perde. non solo perché va all'esterno, perché non si parla di qua, è vero che ci sarà anche un'allestia generale, ma qui di certo ci parliamo. E dice vero. Cioè, l'uomo come struttura di servizio è veramente importante per il Nuovo Testamento. Aggiungendo però, a questo punto, secondo il Vangelo, l'uomo è distolto da questa concezione di sé, di un'esistenza come servizio, a imitazione del Cristo, è distolto da un peccato, da un cuore duro, che richiede conversione. E la conversione deve proprio arrivare a questo cuore duro, perché sì, sì, secondo il Vangelo fa l'analisi a modo suo, e io non credo che sia un complesso, sono anche altre analisi da fare. Lui ha fatto la sua religiosa e profeta. E per lui la violenza, il possesso che si fa accumulo, la stessa struttura religiosa che si fa emarginante, l'autorità che si fa dominio, tutte queste cose che appunto negano il giudizio a ogni uomo, no? Che non concedono più, non sono più le strutture che affermano i diritti dell'uomo e di ogni uomo, tutto questo ha un'origine nel cuore disorientato, nel cuore attaccato e duro, che si concepisce come perfetto anziché come perfetto. È chiaro che se uno concepisce la esistenza per sé, poi in posizione di autorità, donna a vantaggio proprio e della sua parte. Se si ha soldi, li si utilizza per sé, non lo conosce. Questa è l'analisi che fa il Vangelo. E questo non è completa, ma è molto importante, sembra me. E come ripeto, questa, come ho già detto, questa struttura di servizio è fondamentale per mettere in opera un'attiva solidarietà universale. E d'altra parte, l'attiva solidarietà universale è condizione indispensabile per affermare i diritti dell'uomo. Se noi ci accontentiamo di dire ognuno libero di, sono degli uomini che restano emarginati perché non hanno il vero volume, non hanno la capacità di utilizzare, di farsi da sé. Qui occorre il primo peccato. Aggiungendo anche, mi sembra, per precisare che nel Nuovo Testamento l'uomo ha anche una struttura di gratuità. Vuol dire che si concepisce alla funzione come un dono di Dio. E quindi ciò che l'uomo ha è dono. Perché il Nuovo Testamento conosce le differenze tra gli uomini e le ammette addirittura all'interno della comunità ecclesiale. C'è la mano di Dio, no? La comunità ecclesiale è vista come un corpo articolato. Dice le differenze ci sono. Soltanto che le differenze non devono essere mondane, ma spirituali, cioè non concepite come dignità e fonte di diritti, ma appunto come servizio e funzione. Questo è importante. Ma si concepiscono come servizio e funzione se qualche altro lo comprendi come un carisma, cioè come un dono gratuitamente ricevuto da Dio, che deve essere mantenuto nella sua logica di gratuità, allora deve diventare servizio. Se ciò che hai ricevuto gratuitamente, lo fini per te, lo fruti per te, e te lo fai pagare, ciò che era dono è diventato uno strumento di possesso, ciò che era gratuito è diventato il potere, tra l'altro, che era il servizio di te. Sono questi i grandi due di fondo che muovono di te, che parlano, che sono controllati, che sono molto cosa di dire. E certo, anche in certi momenti, che è antropologico e teologico insieme, e c'è una visione delle cose e della storia a partire da Cristo. Da qui si deduce che l'amore, e non la violenza, e non la coercizione, l'amore fa storia, l'amore costruisce, è la grande scommessa. E c'è, si deriva dalla strategia della croce, che uso questa parola che poco quanto mai inadatta, ma comunque. La strategia della croce, perché io, osservando la croce di Cristo, non scopro solo l'idea di servizio e di solidarietà a privare, però se lo scopro, ma non solo, c'è anche l'idea della fiducia nella libertà, è un punto che ho già detto, ma che a questo punto mi interessa. Cioè il Cristo non ha imposto il suo discorso, ha recitato la spada per imporlo, eppure era il grande discorso del regno di Dio. Cioè, in altre parole, la verità si propone, ma non si impone. Si capite, questo è una grossa radice del diritto alla libertà, compreso di chi è un uomo. Quarto elemento e ultimo. Dobbiamo recuperare a questo punto una concezione unitaria e globale dell'uomo e della sua vocazione. Come vedete, le scritture erano veramente due, una concezione di Dio e di conseguenza una concezione dell'uomo, in realtà, perché si può sapere che riguarda Dio e l'uomo. Comunque, una concezione unitaria e globale dell'uomo e della sua vocazione. Le cose che ho detto finora possono servire, naturalmente a livello evangelico, radicale, senza articolazioni e negazioni, servono a rispondere alla domanda dove l'uomo trova il fondamento dei suoi diritti. E la risposta è in Dio, no? Fondamento. Però c'è anche un'altra domanda, ma quali diritti? A che cosa? Non è certo nelle mie possibilità, neppure sarebbe pertinente a partire dal Vangelo, redigere una carta dei diritti, anche perché l'uomo li deve scoprire a partire da alcune intuizioni in fondo, li deve via via esplicitare questi diritti. Quindi anche a proposito di quali diritti, io non voglio un elenco, ma voglio un redigere, cioè che l'intuizione di fondo ricca e poi via via verrà esplicitata. E dopo che trovo nel Nuovo Testamento una prima serie di indicazioni, là dove si parla dell'amore e della solidarietà attiva verso chiunque. Una prima serie di osservazioni. Per esempio, quando si parla del grande comandamento, l'amore di Dio del prossimo, dice ama come te stesso. È già una misura, no? È già un criterio. Quale Dio come te stesso? Matteo riprende più o meno questa idea specificandola nel discorso della montagna. Quanto volete che gli altri facciano a voi, fatelo a loro. È la stessa cosa. Però è un criterio, eh? È un criterio. Quanto mai complesso. Nel Vangelo di Giovanni, come io ho amato voi. E ancora più a fondo, come il Padre ama il Figlio. Ma comprendete allora la profonda unità del discorso neotestamentale. Allora Dio, il suo amore verso l'uomo e ogni uomo, no? Non è solo il fondamento dei diritti, ma è anche il criterio per scoprire quali diritti. La prassi di Gesù mi indica anche quali diritti. È un criterio. Però credo che noi possiamo seguire anche un altro percorso, io indico, non è che sia una persona. L'altro percorso è uno studio biblico sulla vocazione dell'uomo, cioè a che cosa l'uomo è chiamato. E qui si usano diverse frasi, ma potremmo ad esempio prendere quella più generica, chiamato alla vita. Soltanto che bisogna recuperare questo senso ricco di vita, il senso biblico, il senso evangelico poi di vita. E magari anche sotto quelle forme che abbiamo impoverito, come dice Carlo, che dipende alla vista dell'aldilà. E vedete il concetto che comprende la vita di qua, e non solo nell'aldilà. E a che cosa chiamato? Alla vista, ma la visione della vista, che è in pratica la visione dell'uomo della sua vocazione, è una visione unitaria, come già detto, ma anche globale. La vista non è solo esistere, non è solo la durata del tempo, ci mancherebbe. La vita per la Bibbia è una relazione, è promessa, è desiderata, ed è contemporaneamente individuale, sociale, cosmica, è crescita. Direi che è di diritto quindi ad esistere, ad avere le relazioni, a entrare in sintonia nella società, a trovare un posto, a sentirsi utile, a entrare essere in pace col mondo, con la natura, a poter godere della natura, santo Dio. È possibilità di speranza, no? Di movimento, e soprattutto no? È vocazione alla solidarietà, all'amore e alla comunione con Dio. Questo è questo punto che interessa la radice. La Bibbia parte sempre dal presupposto che la fortuna non è stata per Dio, e le sue iniziative non nascono dall'assenza di Dio. Dio è stato progettato sulla misura di Dio. Allora ecco che chiaramente la Bibbia difenderà, sta da tratta il diritto a poter fare esperienza di Dio, non è da fare il Dio, non è vero, è un profondo di Dio, secondo secondo il Vangelo. E poi è un diritto che si afferma non a gloria di Dio, no, ma come salvezza dell'uomo. Quando questa. E adesso non sembra, ma io definito, non lo faccio io. Onda, che poi non mi vengono a dire che non era pensato. Io ho avuto la conversione che facendo da entra a toccare con mano quello che è il settore perché via altri discorsi che partono da altri frenti sono i frenti e le mi e poi per come la mente di prima per qualche volta sono senza più per questo adesso posso aggiungere un limite che avevo in mente di indicare all'inizio e non l'ho indicato, cioè io ho fatto un discorso e di conseguenza che avevo sentito anche chi parla diversamente, ma ho fatto un discorso a partire dal Vangelo che si limita a credenza, questo è il contatto aggressivo, però non sono riuscito a scoprire un'altra cosa. Cioè, il mio discorso, messo di fronte al non credente, ha delle profonde sintonie, immagino, sicuramente per alcuni tipi, ovviamente, di non credente. Quindi questo vero, no? Ogni uomo ha dei diritti che sono sottratti alle oscillazioni, solidarietà, attive, eccetera. Però siccome io ho fatto un discorso alla radice, la partenza, quella era la partenza da Dio, che questo non credente è proprio tale, no? Però credo che sia utile anche al non credente questo discorso perché ho tentato di dichiarare come l'esperienza religiosa corretta evangelica, no? Sia liberante l'uomo e non alienante, questo senz'altro. Però a me sarebbe piaciuto trovare una piattaforma che per il non credente, mi sarebbe piaciuto, ma a livello di questa lettura del Vangelo non sono rispetto mai. Forse possiamo cercare nella discussione, certo. Fare questa prova, però pensare questo accostamento. E mi pare che l'ultimo punto andava bene in questa direzione, il tentativo quasi, almeno forse il problema fino a che punto riusciamo ad abbozzare la carta dei diritti dell'uomo. Questo in termini umani e profani, se vogliamo. Thank you. io purtroppo sono solo un biblista e mi sono limitato anche quello. Io avverto che insieme il problema. Quale è il fondamento universale dei diritti dell'uomo? Ora, il Vangelo mi ha dato un fondamento che è religioso, no? E questo vale senza dubbio per il credente. E senza dubbio è un fondamento universale. Spiegato come l'ho spiegato. Poi all'interno delle comunità religiose l'amore di Dio, anziché diventare un fondamento universale, sia anche diventato, come già al tempo evangelico, no? Un criterio marginante, purtroppo è vero, però è un altro discorso, no? Detto questo, però, io vedo tutta l'urgenza di trovare un fondamento universale che non sia esclusivamente religioso, perché il mondo è fatto di credenti o no. E dobbiamo affermare i diritti di ogni uomo rimanendo un mondo di credenti e non credenti. Questo è molto importante. E mi sembra che questo sia anche il compito del cristiano, la ricerca di questa piattaforma, che il compito del cristiano non è solo di salvare l'uomo un domani, quando, no, per il cristiano tutti accetteranno Cristo e quel fondamento, da credente. Ma già ora bisogna salvare l'uomo. Per cui è una ricerca. Io però non so qual è questo fondamento, perché ripeto, io sono un biblista, non sono un filosofo, non sono un'altra persona, ma credo che sia questo la ricerca. O basiamo solo il fondamento su una decisione, gli uomini si mettono d'accordo, che visto che altrimenti non si può vivere, oppure è un'intuizione che ogni uomo ha, e dice, ma questo è quasi il principio prima, non lo so, io sinceramente non lo so. Ero contento questa sera di essere di Cristo, ma dico, ma c'è un testo, devi dire qual è la partenza di quel testo, però è chiaro che c'è un'urgenza enorme che viviamo nel mondo pluralistico, no? Sarà sempre di vita. Io devo trovare un testo. Per me è un compito ecclesiale, quel cristiano, no? Di proporre la sua idea, il suo fondamento, questo è ottimo, che magari è un grande di questi due attenti, questo è la pensione, no? Però anche il rintracciare, parlevo, costruire sulla piattaforma di consenso che fai appunto tutti i due diversi fatti in questo. L'esperienza religiosa con dei fondamenti analoghi enormemente più vasti come del Vangelo, quello che di Dio. Ecco, non dimentichiamo che ci sono, ci furono, anche le cose che ci sono, limite, no? Delle esperienze religiose che sbagliando il cuore su Dio lo sbagliano sugli uomini, no? E meno di Dio sono anche negli arcani, giustificando, è già possibile persino questo. Però si dice che oggi viviamo anche in un mondo dove l'esperienza religiosa deve stare, no? Quindi la fede può avanzare in nessun modo questa intuizione di Dio, devi invece avere un'intuizione di uomo. Comunque, sempre sì, Grazie. Ma io comincerei, per quanto riguarda la prima domanda, a rispondere a due livelli, in due livelli, no? Prima risposta. Un conto è il discorso della solidarietà universale, no? Quindi dei diritti di ogni uomo, un conto è il discorso della violenza e non violenza. Comunque si risolve il problema della violenza e della non violenza, no? Può essere la giusta violenza, diciamo così, no? Molti cristiani la accettano, al fondo anche sempre. Comunque sia questo, è chiaro che a partire dal Vangelo qualsiasi violenza è il nome dell'amore e per la solidarietà, cioè per difendere un debole contro un prepotente. No? Quindi comunque sia diversa da così. Altro discorso, secondo livello, è che nel Vangelo quelle frasi deve ricorre la parola violenza che penso hanno il senso di una certa violenza. Io sono un po' perplesso per la verità, perché quelle frasi lì secondo me si lasciano interpretare tutto anche nel senso della non violenza. E che non significa per sé che al cristiano sia proibita ogni difesa, quello è un discorso etico, no? Cioè il Cristo mi propone nella sua vita, mi propone quella proposta radicale, profetica, è di un uomo che è andato sulla croce, no? Rifiutando ogni mezzo e anche la sua potenza divina come tentatore di giustizia, quindi di libertà. E quindi c'è il violento, eccetera, ma credo che non voglia dire perché prendono le armi, perché sia la parentela di Gesù con dei movimenti violenti rivoluzionari che proprio non si prende. Ho preso in mano diverse volte questi punti, queste cose, Gesù che lo ha, Gesù che prende me. Quindi studio che mi sembra cantato per altri. Comunque però, a parte questa seconda risposta, no? Il mio discorso sta in piedi anche per l'uomo, no? Che accetta la giusta violenza, che però è sempre per difendere i diritti e per dare i diritti. Allora, cioè, a parte questo tipo così all'interno della democrazia evangelica, anche se si accetta questo. Per quanto riguarda l'altra domanda, la lettura materialistica, ma non so se potrebbe essere, non si è mai pensato a questo suggerimento, se potrebbe essere un mezzo di dialogo con il non credente. E farei due osservazioni. La prima è che, se anche fosse un modo di dialogare con il non credente, in realtà però, almeno come la propone bene, è che non identifica la mia fisionomia di credente. Io per dialogare con il mio credente non devo presentarmi diverso da quello che sono. Cioè, per me quella lettura lì non c'entra, non colpisce il centro della questione. E secondo però il problema resta. Perché il mio credente è chiaro che potrà scoprire nella frase di Gesù, in quella lettura, un messaggio di diritto universale. Ma il fondamento? Fondamentalmente qual è? Perché qui era la domanda del fondamento, no? Non l'esperienza che la afferma. E allora anche il mio credente, anche dalla mia lettura del Vangelo, può accettare che nella frase di Gesù sia chiarita un'esperienza di diritto universale. Ma quello che io dico viene da Dio dunque. Quindi non accettando che viene da Dio, dico, ma l'esperienza da che fondamento ha? Va bene? Quindi il discorso è rimandato un'altra volta al fondamento, mi pare. Anche se una lettura, e questo è il grande merito, a mio parere, di Dele, una lettura che pensa a certe strade e che mette in luce lo spessore proprio, diciamo, materiale, per dire no, prescindendo anche da certe visioni di un'esperienza, che deve essere un'esperienza profondamente umana, di un'antropologia, quella sì è una lettura della Bibbia sul quale possono convenire credenti umani. Questa è una lettura, io direi, antropologica della Bibbia, dove si cerca di cogliere una forte esperienza umana, partire da problemi che l'uomo ha, che prova che invece anche il credente, no? Chiunque faccia una simile esperienza. La risposta però è una credente non sempre comune con il possibile. Dica, qualche parola di più? Quindi il Vangelo non permette molte parole in più, proprio perché si pone a un livello radicale e profetico. Perché io ho usato la parola verità, ma è più piccola di quello che invece volevo dire, no? Era semmai un esempio, perché volevo buttare uno spunto di attualizzazione, ma quanto mai proprio la sensibilità. Io ho parlato invece globalmente di quanto testimonia il Vangelo mediante il rifiuto da parte di Cristo di percorrere una via messianica che accettasse le proposte del tentatore, e invece ha preferito la strada della croce, cioè la strada di una parola di Dio, che è parola di salvezza, parola importantissima, perché è vero che in base alla parola che l'uomo si salva e si danna e gioca tutto il suo destino. Però questa parola è affidata all'uomo e accetta la possibilità del rifiuto, cioè una parola che rispetta la libertà. La parola di Dio è debole, questo anche nell'Antico Testamento, l'esperienza di tutti, no? Gli uomini dell'Antico Testamento. Una parola che, essendo di Dio, all'uomo viene in mente, ecco, come Dio è una potenza di forza, e invece in realtà è una parola che rispetta la libertà dell'uomo, che credo che va incontro. Questo era lo spunto. Le punti da qui si apre, e con moltissimi problemi, perché la libertà, ma fino a che punto? Perché sono delle cose che danneggiano altre, allora si entrano altri valori, un altro discorso. Io credo di condividere questa situazione fondamentalmente. Bene. Thank you.